24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'ondata di panico che ha investito ieri le piazze d'affari continentali, che hanno chiuso tutte in profondo rosso. Milano è stata la peggiore. In precedenza il presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, aveva parlato di un'incertezza particolarmente elevata nell'Eurozona, attaccando la gestione politica dei leader comunitari. La BCE ha lasciato i tassi invariati. Il presidente della Commissione, Barroso, ha chiesto un ripensamento dei fondi salvastati. Guai giudiziari a sorpresa per il direttore generale dell'FMI, la francese Christine Lagarde, e oggi vi racconteremo la campagna per liberare dall'ergastolo un carcerato nordirlandese molto malato, e vi parleremo anche di una sentenza tedesca davvero molto particolare sul divorzio. Lo dicevamo nel sommario, è stata un'altra giornata di passione per le borse europee, con l'Italia ancora in prima linea. Le azioni speculative hanno provocato un vero e proprio panico sui mercati continentali, che hanno tutti chiuso in profondo rosso, bruciati circa 173 miliardi di euro di capitalizzazione. Partiamo da qui, con i listini europei sprofondati. Milano è stata la peggiore in assoluto, con il FTSE MIB che ha perso il 5,16%. Parigi ha chiuso a meno 3,9% ai minimi da luglio 2009, Madrid a meno 3,89%, Londra a meno 3,43%, Francoforte meno 3,4%. In fortissima tensione anche gli spread, cioè i differenziali tra i titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato il record di 390 punti base, arrivando a quota 390,2. E sentiamo ora nel dettaglio come è andata la giornata di borsa ieri a Milano. Un calo complessivo di oltre il 5%, gli indici in tilt nell'ultima ora di negoziazione, perdite superiori al 10% per Intesa San Paolo e Fiat, mentre Unicredit e Fiat Industrial scivolavano di oltre il 9%. Sono gli ingredienti della seduta thriller avvenuta a Piazza Affari, nettamente la peggiore delle borse continentali, in un'altra giornata di fuoco anche sul fronte obbligazionario. Le rassicurazioni arrivate dal premier Berlusconi non hanno avuto effetto sui mercati finanziari, così come la decisione della BCE di tornare ad acquistare titoli obbligazionari governativi europei. E mentre la borsa scendeva, il rendimento dei titoli di Stato italiani volava al 6,2%. Sul FTSE MIB, oltre ai bancari e a Fiat, Saipem ha perso l'8,3%, Tenaris il 7%, dopo una trimestrale deludente. Con il nuovo tonfo, Piazza Affari ha toccato i nuovi minimi dai primi di aprile 2009. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Tensione altissima dunque nell'Eurozona, nonostante il tentativo del presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, di gettare acqua sul fuoco del contagio. It's urgent for all, absolutely all, and for Italy, of course. L'incertezza è particolarmente alta e la crescita economica dell'area euro è in decelerazione, ha affermato Trichet, secondo il quale gli attuali rischi al ribasso per lo scenario macroeconomico dell'Eurozona potrebbero intensificarsi. È importante che vi sia un rinnovato impegno di tutti i capi di governo e di Stato europei nell'aderire strettamente ai target fiscali e, ove necessario, ad adottare ulteriori misure fiscali più ravvicinate. Così Trichet, che non ha risparmiato attacchi ai governi, hanno le loro responsabilità, ha detto. Di qui l'appello del presidente della BCE. Il fondo di stabilità europeo dovrebbe essere reso operativo il più presto possibile. Trichet ha infine aggiunto: considerate le tensioni particolarmente alte sui mercati, il consiglio direttivo della BCE ha deciso un'operazione supplementare di liquidità. La BCE ha lasciato pure intuire di aver riavviato un programma di acquisti mirati relativo ai titoli di Stato. E ascoltiamo ora il commento del giornalista del Sole 24 Ore, Walter Riolfi. Quello che abbiamo visto oggi, la conferenza stampa di Trichet, è il capolavoro, il trionfo della tergiversazione, dell'inutilità, dell'incapacità delle autorità monetarie di prendere una decisione. Quello che abbiamo visto tra ieri sera, dal discorso di Berlusconi a quello di Trichet, proprio è l'incapacità delle autorità monetarie o politiche di affrontare la situazione. Il discorso di Trichet è stato qualcosa di paradossale addirittura, no? La dichiarazione, vedrete, non sarei sorpreso che alla fine della mia conferenza, e sono le 3 del pomeriggio quando lo sta dicendo, vedrete qualcosa, succederà qualcosa sui mercati. E in effetti qualche secondo dopo succede qualcosa, il rendimento del titolo di Stato italiano, che era il 6,20%, arriva giù al 6%, cade, no? Allora tutti dicono, mamma mia, sta comprando i titoli italiani, non capisce niente. No, no, non era quello il problema. Succede semplicemente che loro si aspettano qualcosa, gli operatori, e anticipano una mossa. Il problema è che non è successo proprio niente. Anzi, si capisce che lui compra i titoli, semplicemente i titoli portoghesi e irlandesi. E quindi la reazione successiva, quando i mercati si sono accorti che le parole di Trichet erano vuote, la reazione successiva è stata ancora peggiore. L'Italia resta dunque in prima linea nella tempesta finanziaria. In una successiva intervista il presidente della BCE Trichet ha avvertito che ciò che serve all'Italia è ridurre la spesa pubblica e raggiungere i propri obiettivi di deficit. Trichet ha anche aggiunto che è assolutamente essenziale che ci siano riforme strutturali, in particolare una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, così da rilanciare la competitività. E il presidente della Commissione europea Josep Barroso ha chiesto ai leader comunitari di rivedere l'efficacia del fondo salva stati affinché sia in grado di affrontare l'attuale contagio della crisi dei debiti. Voltiamo ora pagina. La Corte di giustizia francese ha aperto un'inchiesta per abuso d'ufficio a carico dell'ex ministro dell'economia, oggi direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, nell'ambito del contenzioso tra l'uomo d'affari Bernard Tapie e il Crédit Lyonnais. Sentiamo il servizio. Nominata un mese fa la direzione generale del Fondo Monetario, l'ex ministro francese dell'economia Christine Lagarde è sotto accusa a Parigi per l'arbitrato che 3 anni fa ha chiuso il lungo capitolo dello scontro tra lo Stato e il finanziere Bernard Tapie a proposito della vendita nel 1993 della società Adidas. La Corte di giustizia competente per gli eventuali reati commessi da membri del governo ha infatti deciso di aprire un'inchiesta, ritenendo in sostanza che l'ex ministro abbia preso una decisione sfavorevole all'interesse pubblico. Il Fondo Monetario ha già confermato la propria fiducia alla Lagarde. L'inchiesta durerà anni e probabilmente si chiuderà con un'archiviazione. In sostanza non accadrà nulla. Anche se certo, in un momento così delicato per lo scenario economico e finanziario mondiale, sarebbe stato meglio che sulla Lagarde non ci fosse alcuna ombra, a maggior ragione dopo lo scandalo del suo predecessore Dominique Strauss-Kahn, anch'esso francese, alla guida del fondo. Marco Mussanet, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. L'Unione Europea ha raggiunto un accordo per estendere le sanzioni ad altri esponenti del regime siriano, lo si è appreso ieri sera da fonti comunitarie, esclusa invece per il momento l'ipotesi di applicare sanzioni al settore petrolifero e a quello finanziario. Intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera e di sicurezza Catherine Ashton ha nominato il diplomatico italiano Fernando Gentilini direttore per l'Europa occidentale, i Balcani occidentali e la Turchia del servizio diplomatico europeo. E ora vi raccontiamo due storie dall'Europa, entrambe molto particolari. La prima arriva dall'Irlanda del Nord. Brendan Lillis è un prigioniero irlandese condannato all'ergastolo nella prigione di Loncash, nell'Irlanda del Nord. Nel 1977 era stato arrestato per possesso di esplosivi. Ora ha 59 anni ed è molto malato. Pesa al momento 37 kg. Numerose le campagne volte a chiederne il rilascio. È arrivato anche un appello da parte dell'Europa. Sentiamo Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento Europeo, al microfono di Gianpaolo Musumeci. Evidentemente si tratta di un caso straordinario, credo unico in Europa, di un detenuto politico che è anche ovviamente accusato di una serie di reati comuni, che però versando in una condizione di salute assolutamente precaria, perché questa persona rischia di morire, non vede affermati difesi i suoi diritti fondamentali, e questo è stabilito non soltanto dalla Carta dei diritti fondamentali, ma anche proprio dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che tra l'altro dopo il Trattato di Lisbona fa parte integrante del diritto comunitario. Quindi in qualche modo credo che l'Europa si debba interrogare sul fatto se è più possibile consentire situazioni di violazione dei diritti umani come in questo caso. La seconda storia che vi raccontiamo arriva dalla Germania. Per i giudici tedeschi un genitore divorziato con figli a carico deve lavorare tutto il giorno. Sentiamo. Fa discutere una sentenza della Corte di giustizia federale tedesca, la quale stabilisce che una mamma o un papà divorziato che si occupi di un bambino debba avere un impiego a tempo pieno. Non può perciò né contare sugli alimenti versati dall'ex partner, né può rivendicare il diritto ad un lavoro part-time per stare a casa ad accudire il figlio quando quest'ultimo abbia raggiunto i 3 anni di età. Per i giudici di Karlsruhe che hanno emesso la sentenza, esistono infatti strutture in grado di accogliere il bambino anche dopo la fine del normale orario scolastico. Il genitore divenuto single potrà dunque cercare rischiare di rimanere a casa per parte della giornata soltanto se dimostri di abitare in un luogo privo di asili nido o presentando perizie di psicologia infantile che attestino una situazione di grave disagio. L'altra alternativa è rinunciare ad avere figli. E in un paese come la Germania, che, come ha rivelato l'Ufficio Statistico Federale, è la nazione col più basso tasso di natalità d'Europa, non sembra la migliore delle soluzioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.